A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Il paese rischia di impiccarsi con la corda dei suoi vizi storici, così come è successo alla Grecia. La posta in gioco non è mandare in galera qualche centinaio di corrotti in più, la posta in gioco non è recuperare 10 miliardi di evasione in più, la posta in gioco è il destino di questo paese. In mancanza di risorse, perché queste risorse sono bruciate dall'illegalità di massa, sono bruciate ogni anno, in mancanza di un libero mercato, una libera concorrenza, perché il mercato è balcanizzato, una serie di mercati regolati, questo paese è inevitabilmente su un piano inclinato. Diciamo che per l'Italia è l'ultima chiamata questa. Io credo che ci sia un corridoio temporale molto stretto, che è questo. Poco tempo e una missione quasi impossibile: scardinare decenni di incrostazioni, di corruzione, evasione e mafie. Ma dalla lotta all'illegalità, come riconosce lo stesso premier Mario Monti, passa il futuro dei giovani. La posta in gioco è il destino stesso di questo paese, sentenzia in modo ancor più perentorio uno dei magistrati di più lungo corso e profonda analisi, come Roberto Scarpinato, ora procuratore generale di Caltanissetta, dopo anni nell'antimafia palermitana. Sfoglia la storia, incrocia dati economici con relazioni giudiziarie e formula una previsione, Scarpinato. La Grecia è dietro l'angolo se questo governo tecnico non scardina il male italiano, che se per decenni è stato sopportato, dice, ora che la crisi morde non è più gestibile. Dopo l'adesione dell'Italia al Trattato di Maastricht, impone, come si sa, a tutti i paesi aderenti all'Unione Europea di rispettare rigorosi tetti massimi nella spesa pubblica, quindi non è più possibile la svalutazione competitiva, quindi non è più possibile fare ricorso all'inflazione. E a questo punto come si fa per compensare il costo di 60 miliardi annui di corruzione, per far fronte a 120 miliardi in meno di introiti fiscali a causa dell'evasione? Non potendo tagliare i costi della illegalità, si è deciso di tagliare i costi dello Stato sociale, e quindi minore fondi per la ricerca, per l'università, per la scuola, con un costo però che è altissimo. Se il ceto medio consuma di meno, gli ordinativi delle imprese diminuiscono e si instaura una spirale recessiva che è quella che ha portato la Grecia al disastro. Ma prima di arrivare a questo, quindi, secondo la sua analisi, che cosa è successo quando quel momento d'oro è finito? È successo che quella economia drogata è implosa, in un certo senso? Gli anni 80, gli anni 90, tutta quell'amplissima parte di imprenditoria che lavora col pubblico comincia ad adagiarsi sugli allori di rapporti collusivi con la politica, nel senso che invece di investire in innovazione, in ricerca, in competizione, gli imprenditori che avevano a che fare col pubblico creavano delle ragnatele collusive con gli esponenti politici, e bastava entrare dentro un certo giro di rapporti per cui le commesse, gli appalti erano garantiti. Ecco che in quel momento abbiamo un'economia drogata dall'illegalità, mercati regolati dove si entrava soltanto se c'erano determinati lasciapassare politico. Quando invece c'è la globalizzazione, questo piccolo mercato domestico salta. Le imprese italiane si trovano impreparate perché si erano racketizzate grazie a questo sistema collusivo col potere politico, non avevano investito in innovazione e ricerca. Davanti a questo quadro, che può essere considerato, diciamo, l'origine anche della condizione del nostro paese attuale, si ha la consapevolezza che a partire dalla lotta all'illegalità, quindi corruzione, evasione, tutti i reati finanziari ed economici, passa anche il percorso per una rimessa in funzione del paese? Credo che allo Stato sia una consapevolezza rifletta da alcune elite, le quali si sono resi conto che non è più possibile andare avanti come si andava nella Prima Repubblica, ma non per motivi di etica, proprio per motivi macroeconomici, perché il paese rischia di impiccarsi con la corda dei suoi vizi storici, così come è successo alla Grecia. La Grecia è arrivata alla bancarotta democraticamente, tra virgolette, nel senso che c'era una classe politica e una società civile che non voleva assolutamente rinunciare ai vantaggi dell'economia drogata, della corruzione, dell'evasione fiscale, del clientelismo di massa. È arrivato a un certo punto, il treno è deragliato. Ora, a me pare che purtroppo ci sia un gap culturale tra i problemi dell'illegalità di massa di cui stiamo parlando, che vengono affrontati sul piano strettamente giudiziario, e invece la posta in gioco. La posta in gioco non è mandare in galera qualche centinaio di corrotti in più, la posta in gioco non è recuperare 10 miliardi di evasione in più, la posta in gioco è il destino di questo paese. Lo spread tra titoli italiani e titoli tedeschi è vero che si è ridotto, ma si è ridotto sui titoli a 2 anni. Se noi andiamo a vedere invece lo spread sui 10 anni, ci accorgiamo che non c'è una ristrutturazione analoga a quello per i titoli di 2 anni. Questo significa che la credibilità del nostro paese ha fatto un'apertura di credito a breve termine, perché è necessario un cambiamento più profondo del paese. Quindi lei come giudica in questo momento quanto viene fatto in termini di lotta all'illegalità da parte dell'attuale governo, come un'azione profonda o soltanto come degli interventi di un respiro breve? Siamo tutti in attesa, perché finora si è parlato di una riforma delle leggi sulla corruzione, ma che da solo non sarebbe sufficiente se non si limita anche quella che è diventata una metastasi del paese, cioè il conflitto di interesse che attraversa tutti i livelli. Si è parlato di lotta all'evasione, ma ancora delle leggi che ristrutturano le sanzioni penali, che prevedono per esempio che con la dichiarazione dei redditi i cittadini devono indicare tutti i conti correnti, i depositi bancari di cui sono titolari, ancora non si vedono e sono, mi si dice, in cantiere. Ci sono tante cose da fare, tutto dipende da quel che si farà. Ma se noi non approfittiamo di questa sospensione, di questa bolla temporale, no? Quindi diciamo che per l'Italia è l'ultima aperta. Chiamata questa. Io credo che ci sia un corridoio temporale molto stretto, che è questo. Bisogna, come dire, assumersi la responsabilità anche di rischiare. Quello che secondo me è il peggio è la rimozione di quelli che io vedo come i nodi strutturali, e il temporeggiare e il trovare soluzioni minimaliste al ribasso che in tempi eccezionali, brevi come questi, ce lo possiamo più permettere. Da Milano a Bari, da Bologna a Roma, passando per Firenze, ormai ci sono tantissime inchieste di vario tipo che coinvolgono personaggi o politici. Lei, alla luce di quello che stava dicendo, come giudica la bozza che c'è del DDL anticorruzione? Si poteva fare di più? In questo momento ci vorrebbe un piano nazionale anticorruzione che si muova a tutti i livelli, a livello di prevenzione politica, a livello di prevenzione amministrativa e poi anche a livello penale. Quello che è importante è che si abbia la consapevolezza che qui occorre una strategia multilivello, cioè non è che si può scaricare la responsabilità di rimettere in piedi il paese ai processi penali, occorre una strategia multilivello che intervenga su tutti i punti attraverso i quali il nostro sistema ha delle falle che fanno perdere continuamente risorse, e quindi il conflitto di interesse, i cartelli tra le imprese, i mercati collusivi e regolati. Solo se si ha questo orizzonte problematico davanti si può fare un piano straordinario anticorruzione che consentirebbe di poter governare questo fenomeno eridimensionale. Per quanto riguarda il diritto penale, poi, la più importante tra le riforme è il cambio del regime della prescrizione penale. Noi abbiamo per ora di fatto la consapevolezza da parte dei corrotti che bisogna pagare il fastidio di un po' di gogna mediatica, il fastidio di farsi 2-3 gradi di giudizio, ma c'è la garanzia dell'impunità, perché alla fine i reati si prescrivono. Se in un DDL anticorruzione non si mette mano al capitolo prescrizione, è un provvedimento che nasce zoppo. Dal mio punto di vista sì, ma bisognerebbe mettere mano adeguando la legislazione italiana a quella degli altri paesi europei, che prevedono che la prescrizione o decorre al momento in cui il reato è accertato, o che comunque la prescrizione si interrompe definitivamente nel momento in cui lo Stato esercita l'azione penale. Questo sarebbe un segnale di svolta radicale, se dobbiamo essere realistici. Chi opera in questo settore sa benissimo che la giurisdizione in questo campo ha, diciamo, delle pistole ad acqua. Proprio sulla corruzione un nuovo richiamo sta per piombare sull'Italia dall'Europa. 16 falli hanno individuato infatti gli ispettori del Greco, il gruppo anticorruzione del Consiglio d'Europa, nel nostro ordinamento giudiziario. 7 riguardano proprio il finanziamento ai partiti, e presto tutto questo sarà formalizzato in una relazione insieme alle risposte dell'Italia, che si è avviato con anni di ritardo l'iter di ratifica di una delle convenzioni di Strasburgo sulla corruzione da privati, e ora alle prese proprio con una nuova legge anticorruzione. Ma l'ingranaggio non si inceppa solo qui, perché poi se si scende verso la punta dello stivale entrano in gioco anche le mafie. E vi siete mai chiesti perché, ad esempio, nel famoso papello del boss Totò Riina con le richieste per interrompere le stragi del 92 compaia anche la riduzione delle accise sulla benzina? A ciascuno il suo. Nel 2010 l'Italia era la seconda. Nel rapporto dell'Olaf, l'organismo comunitario contro le frodi, di cui abbiamo già parlato in altre puntate di A ciascuno il suo, il nostro paese è secondo solo alla Bulgaria per numero di indagini anticorruzione avviate dall'Agenzia Europea, appunto. È un nuovo monito proprio sulla lotta all'illegalità e sulle correzioni normative da apportare sta per piombare su Roma da parte del Greco, il gruppo anticorruzione del Consiglio d'Europa. Questo proprio mentre da Milano a Bari, da Bologna a Roma, dalle mazzette nascoste nei CD al pirellone e alle cozze pelose nella vasca da bagno proliferano le indagini su vecchie e nuove forme di illegalità. Ma ora l'Italia non riesce più a sostenerne il peso e la posta in gioco è il destino stesso del paese, calcola il procuratore Roberto Scarpinato, come abbiamo già sentito nella prima parte. Un peso che diventa ancor più gravoso in un tempo ancor più ridotto nel sud del paese, dove la trattativa tra Stato e mafia è passata anche attraverso l'economia, ricorda Scarpinato, che è procuratore generale proprio a Caltanissetta, dove recentissime inchieste hanno ridisegnato il quadro dei patti segreti all'ombra delle stragi del 92. E si scoprono allora anche progetti che riguardano benzina, partiti e un certo federalismo. Noi, è la mia modestissima opinione, ci stiamo suicidando, non siamo in grado di rimetterci in carreggiata perché purtroppo siamo dentro un sistema della corruzione sistemica, dell'evasione continua, che non è un sistema che può reggere la competizione internazionale, che è un sistema che sta facendo morire lo Stato sociale, che sta uccidendo il ceto medio, che sta riducendo i consumi e che ci condanna a fare una fine che è una fine di lento declino. E da questo punto di vista le iniziative anti-evasione e anticorruzione, non so, dai blitz contro i furbetti dello scontrino a queste discussioni sulla norma anticorruzione, come le definirebbe lei? I blitz sono pubblicità mediatica. Noi abbiamo bisogno in questo momento delle leggi, di atti legislativi che cambino gli strumenti con i quali intervenire la realtà, perché un blitz a Cortina d'Ampezzo, un blitz a Portofino e Compagnia Bella non sono certamente in grado di cambiare complessivamente l'ordine dei fattori o di far ritornare indietro un sistema che cammina secondo logiche che sono quelle che abbiamo descritte. Per esempio, un fatto è se si emana una legge con la quale stabilisce che il contribuente al momento della dichiarazione del reddito deve indicare tutti i rapporti bancari di cui lui e le persone sul nucleo familiare sono titolari, quello è un fatto che secondo me è più importante di 3-4 blitz. Logiche che queste, soprattutto diciamo anche con un risvolto economico, diventano ancora più delicate, importanti e con un peso ancora maggiore al sud Italia. Questo sistema economico saltato nel sud Italia è stato riempito forse più che altro dagli affari dei clan, e non è un caso giustamente che lei cita come esempio tutte le iniziative legate all'eolico. Proprio in Sicilia ci sono state tantissime inchieste anche importanti che hanno scoperto legami tra investimenti eolici e comunque le energie alternative e i clan mafiosi. Perché quello è un settore in cui questo tipo di connubio nefasto è più evidente che altrove? L'economia meridionale, come sappiamo, è stata un'economia assistita, finanziata in larga misura con la spesa pubblica. Certo. La stessa spesa pubblica che è finita. Questo ha determinato un aumento della forbice nord-sud. Il sud ha perso interesse come mercato interno e rischia di essere abbandonato al suo destino. È molto preoccupante, per esempio, il fatto che le ferrovie dello Stato, nel piano di ristrutturazione dell'alta velocità, abbiano fermato l'alta velocità a Roma e abbiano ridotto le linee interne del sud, anche quelle ordinarie. Fa riflettere che dall'agenda politica sia stata completamente cancellata la questione meridionale, al suo posto c'è ormai soltanto la questione settentrionale. Alcuni parlano di dividere l'Italia in due zone, una zona centro-nord da fare rientrare nella zona euro 1 forte e un sud da fare rientrare nella zona euro 2. dai paesi deboli, da consegnare a un'economia alternativa da porto franco, e cioè defiscalizzazione della benzina, case da gioco, assoluta deregolazione dei rapporti di lavoro. C'è un giocatore in più. Questo giocatore in più è l'imprenditoria mafiosa. Non è un caso che alcuni dei protagonisti della nuova stagione di Confindustria in Sicilia, e cioè Antonello Montante e Ivan Lobello, esatto, sono imprenditori che non operano in settori che hanno a che fare col pubblico. Il settore eolico di cui lei mi parlava invece è un settore per il quale occorrono autorizzazioni, e quello che noi abbiamo accertato è che nel Meridione hanno assunto un ruolo di protagonismo dei soggetti i quali avevano rapporti collusivi col pubblico. Lei prima citava le varie proposte, le cose che si sono pur dette, ad esempio della creazione di un porto franco. Si è parlato ogni tanto anche dell'ipotesi di intervenire sul costo della benzina, ad esempio sulle accise, che è un punto inserito anche nel famigerato papello di richieste della mafia stragista di Totò Riina allo Stato. Il famoso papello, l'elenco delle richieste che il capo della mafia Riina fece, conteneva benefici processuali per i mafiosi, l'annullamento del maxi processo, il 41 bis, trattamenti di favore di ogni genere. C'era un solo tema assolutamente distonico rispetto agli altri, che era la defiscalizzazione della benzina. Ma con tutto quello che succedeva in quegli anni, ma i mafiosi volevano risparmiare sulla benzina? Certamente no. Questo argomento, questo tema distonico, in realtà è la punta di iceberg di un progetto politico che c'era dietro, perché la mafia già in quegli anni pensava di fare della Sicilia una specie di porto franco, e non è un caso che aveva dato vita a dei movimenti autonomisti all'interno di un progetto nazionale di federalismo molto spinto. E non dobbiamo dimenticare che in Sicilia l'80% delle esportazioni è dovuto alla voce di prodotti petroliferi, perché in Sicilia c'è il più grosso polo di raffinazione d'Europa, se non mi sbaglio. Alla luce di quello che la vostra procura, di quello che i vostri uffici hanno ricostruito, alla luce di tutto questo, questo connubio viene percepito effettivamente a livello centrale nel modo adeguato? Gli specialisti sanno che il vero punto di forza della mafia è quello che viene chiamata la borghesia mafiosa, cioè un blocco sociale che è fatto di persone che hanno cervello, e non è un caso che i processi di questi ultimi anni hanno portato alla condanna definitiva di capi mafia, di medici, di imprenditori, di architetti, di ingegneri, di avvocati. Il paese ora sta perdendo l'ultima occasione storica che abbiamo, cioè l'utilizzo intelligente dei fondi europei, perché il dramma del dramma è che da una parte non ci sono i soldi pubblici, dall'altra parte i fondi europei, invece di essere investiti in progetti infrastrutturali di largo respiro per poter fare della Sicilia la capitale del Mediterraneo, vengono dispersi in una miriade di corsi di formazione professionale che lasciano il tempo che trovano, in miliardi di euro per finanziare micro e macro consulenze onerosissime che spesso finiscono a personaggi e professionisti agganciati al potere politico, e insomma credo che così non usciremo dalla situazione in cui ci troviamo. A ciascuno il suo, termina qui. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it nella sezione podcast, oppure direttamente su iTunes. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, nome della nostra vecchia trasmissione, e sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.